Sì, noi siamo in CIE da un paio di giorni, ci sono anche un po' di nervosismo, c'erano anche altri tre tunisini che hanno tagliato. C'era uno che ha tagliato di brutto e stava anche male perché gli dal piedi ci hanno fatto cosa ci ha fatto. Comunque, loro sempre promettono, e la stessa cosa, sempre promettono, facciamo, per stare tranquilli, questa, questa. Si è entrata ieri la polizia, ieri verso le 9, mi sembra qualcosa del genere, anche forse le 9, mi sembra le 9, non mi ricordo l'ora esatta. C'è entrato un blocco polizia dei militari e ci hanno andato a un albanese, c'era la moglie e ce l'ha la bambina qua in Italia. E praticamente l'hanno spostato con forza e ci hanno portato fuori per fargli rifare. E gli altri albanesi sono infuriati perché gli hanno detto che questa ce l'ha padre di famiglia, questo no, l'hanno detto no, con calma, se lui accetta, accetta, se non accetta, ritorna. Mentre siamo così. L'hanno chiamato lui perché era un pochino forte, l'hanno chiamato con la loro lingua e lui l'ha detto che già la polizia l'hanno chiesto di portarlo, ci hanno portato anche con forza. È successo, già sono infuriati gli albanesi che stanno qua nel modulo e hanno iniziato a una specie di, diciamo così, protesta. È stato bruciato tutte le materassi e niente, siamo rimasti tutta la notte noi qua dentro il modulo, tanto il modulo qua perché siamo come in carceri, no? E la polizia che ci sono tre moduli aperti e c'è una specie di corridoi dove c'è l'infermeria e loro dove lavorano e c'è un'altra porta dove esci fuori, hai capito com'è? E in quella porta lì, dall'altra parte c'è la polizia, i carabinieri e la cosa. E Tanto non loro entravano. chiudono il modulo e chiudono e vai quello che tu vuoi fare, tanto non si sente nessuno e non si Da soli. vede nessuno. Ho capito. E senti, quindi c'è stata, diciamo, tutta questa notte di protesta che è nata appunto dal fatto che volevano portare via un ragazzo albanese, Ci hanno giusto? portato via, ci L'hanno hanno portato portato via. via, Ok, un l'hanno padre di portato via. famiglia Sì. incensurato, ecco. Ho capito, ho capito. E invece stamattina com'è la situazione? Stamattina ci hanno pulito un po' l'aria dove siamo noi, anche un po' la sezione. Ci volevano portare la coalizione, ma siamo tutti, abbiamo detto di no. L'unico che può prendere, ha preso la coalizione, è diabetico, ecco. Per il resto siamo qua. Certo. Quindi avete rifiutato Siamo appunto di mangiare rifiutato stamattina? sé, sì. Ok.